Sottotiro. Storie di mafia e antimafia di Roberto Galullo. Benvenuti all'ascolto di una nuova puntata. Sul Sole 24 Ore, sull'inserto Lombardia, quindi quello che viene distribuito solamente in questa regione, il 10 novembre è uscita una notizia che trovo straordinaria. Piccola, una notizia, diciamo così, che non ha occupato molto spazio, ma che si calava benissimo in un contesto in cui i colleghi del giornale analizzavano il fenomeno della penetrazione delle mafie nell'economia comasca. Questa notizia riporta che una scuola di alta formazione contro il crimine organizzato partirà a Cermenate, e siamo in provincia di Como. Io lo trovo una notizia straordinaria. Perché? Perché, come più volte avete ascoltato dagli interlocutori di questo programma, gli anticorpi nel nord contro le mafie sono all'inizio, alle prime battute, ma si stanno velocemente ricreando. Quindi queste sono iniziative fondamentali. E per parlarne noi abbiamo chiamato Alessandro Delisi. Chi è? È il responsabile nazionale del progetto San Francesco, programma antimafia della CISL, che cura anche l'apertura di questa scuola di alta formazione, ed è in più un consulente della Commissione parlamentare antimafia, quindi una persona assolutamente preparata, capace, idonea, esperta, formata per parlare con noi di questi problemi. Buongiorno Delisi. Buongiorno a voi e buongiorno a Radio 24. Allora Delisi, a me piace molto questa iniziativa, ma perché la fate a Cermenate, in una villa confiscata alla mafia? Questo ci fa godere ancora di più, ma perché a Cermenate? Beh, la villa si trova a Cermenate. È stato un caso e una serie di amicizie, di sostenitori del progetto San Francesco contro la mafia hanno pensato bene, innanzitutto la Polizia di Stato, che ha rinunciato a far nascere un commissariato lì, rimettendo nelle mani dell'Agenzia Nazionale per la Gestione e l'Assegnazione dei Beni Confiscati contro la Mafia proprio il bene di Cermenate. La villa sarà e vuole essere sin dall'inizio, sin come si legge in sentenza dell'Agenzia di Reggio Calabria, primo centro d'alta formazione in Europa contro il crimine organizzato e per la promozione dei diritti umani. Ecco, Delisi, quando partirà e a chi vi rivolgerete? Partirà dopo marzo, perché il 3 marzo è l'anniversario dell'omicidio di Epifanio Lipuma, il sindacalista ucciso in Sicilia al cospetto dei propri figli il 3 marzo del 1948, e ancora oggi aspetta giustizia, non avendo ancora visto né mandanti né esecutori assicurati alla giustizia. Quindi nella primavera del 2011 partirà questa scuola di alta formazione, quindi sarà una scuola nazionale che si rivolgerà, lo dica lei? Noi ci vorremmo rivolgere, siamo sicuri, perché è così, a tutti, agli imprenditori soprattutto, perché siamo convinti come sindacato che salvare le imprese per bene a rischio criminalità significa salvare posti di lavoro. Noi ci rivolgiamo alle banche, ai lavoratori nelle banche, ci rivolgiamo soprattutto ai giovani studenti della Lombardia, perché noi crediamo che l'investimento culturale sia il principale antidoto per la distruzione degli interessi criminali. Adesso le faccio una domanda che la farà sicuramente arrabbiare, ma io sono noto per fare delle domande scomode, per questo sono antipatico a molti, di questo io mi beo. E i sindacalisti non vanno educati al rispetto della legalità, secondo lei? In prima battuta sì. Oh, benissimo. Quindi non si arrabbia per quello che dico? No, anzi, è una delle mie nostre principali preoccupazioni. Noi siamo sostenitori della responsabilità sociale e siamo convinti che prima di essere di impresa deve essere di sindacato. E questo mi fa piacere che lei lo metta in evidenza, e sa perché? Perché in Italia, secondo me, uno dei grandissimi difetti che abbiamo è quello di vivere ancora per corporazioni, no? Quando si parla male dei giornalisti della mia categoria insorge: no, la libertà di stampa, per carità. Invece devo dire, la mia categoria è piena di cialtroni che non sanno fare il proprio mestiere. Quando si tocca i sindacalisti, guai il sindacato. Invece mi fa piacere che lei abbia sottolineato che vanno educati tutti a partire da molti sindacalisti che, a mio giudizio, nel sud non sempre, come alcune inchieste ultimamente stanno rivelando a Reggio Calabria, fanno fino in fondo il proprio dovere. Questo vuol dire rompere un patto sociale, un patto di convivenza civile. Delisi, però, lei, che è un'altra persona che come me non guarda in faccia a nessuno, alcuni giorni fa, il 25 o il 26 di ottobre, ma comunque parliamo di settimane, se n'è andato tomo tomo cacchio cacchio, come direbbe Totò in Valtellina, e ha detto: attenzione che qui si sta riproducendo il fenomeno mafioso che abbiamo già visto in Sicilia, abbiamo già visto in Calabria, abbiamo già visto in Campania, e in più fa presente una di quelle cose che a me piacciono perché non se ne parla mai. Attenzione che qui c'è anche un intreccio perverso con la politica perversa, le imprese malate e la massoneria deviata. Ci può spiegare perché la Valtellina? Sì, la Valtellina si può leggere esclusivamente nell'ottica che a noi sta a cuore. Il sottotitolo del progetto San Francesco è un passo del Vangelo di Giovanni che dice di collezionare tutti i frammenti affinché nulla vada perduto. Proprio in virtù di un'umiltà nuova, rinnovata, ritrovata contro il crimine organizzato, non basta più la magistratura e la polizia, e il sindacato non può porsi terzo soggetto tra il lavoro e il lavoratore. Noi crediamo che in Valtellina, come in altre realtà del nord del paese, la Liguria innanzitutto, è possibile verificare come la mafia, soprattutto l'andrangheta, abbia clonato se stessa in nuove forme. Ciò non significa che è imputabile in Valtellina, come in altre parti, la presenza strutturata, facendo riferimento al codice del 416 bis, certo, di come reato associativo grave penale, certo, di organizzazione mafiosa, bensì vi sono tutti gli elementi, e noi stiamo lavorando anche a Cermenate affinché ci sia la percezione dell'aspetto della mutata mafia. Benissimo. O della mutata 'ndrangheta. Bene Delisi, io la ringrazio per questa chiacchierata. Ci risentiremo sicuramente nei prossimi mesi per seguire il vostro progetto. Io intanto vi auguro buon lavoro, così come ringrazio in regia Roberto Scaltritti e in studio Laura Faggin, e vi do appuntamento a domani per una nuova puntata.